24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Se la Spagna chiedesse l'aiuto dei fondi salvastati e l'intervento della BCE, sarebbe sottoposta a condizioni durissime. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, intervistato da una televisione tedesca. Come la Spagna, ha aggiunto Juncker, anche altri paesi dovrebbero sottostare alle condizioni poste. Ciò considerato, per superare la crisi del debito occorre proseguire sulla strada delle riforme, perché il piano di acquisti di bond dei paesi deboli annunciato dalla BCE non sarà sufficiente, ha concluso il presidente dell'Eurogruppo. Adesso il fenomeno immigrazione. Il commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muschnecks, ha pubblicato il suo primo rapporto sull'Italia in seguito alla visita che ha condotto nel bel paese lo scorso luglio. Nel suo rapporto Muschnecks osserva tra l'altro che l'intero sistema giudiziario e procedurale italiano va riformato a fondo e sottolinea che a cambiare deve essere addirittura la cultura giudiziaria del nostro paese. Lo sentiamo nell'intervista di Sergio Nava. Un cambio di politica c'è stato col nuovo governo Monti, ma i segnali restano contrastanti. È con questo giudizio che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, eletto Nils Muschnecks, sprona l'Italia anche con qualche bacchettata sul fronte dei tempi dei processi e sull'immigrazione, due diversi dossier sui quali Muschnecks ha indagato lo scorso luglio con una visita nella penisola. Le conclusioni fotografano un'Italia ancora a passo di lumaca, soprattutto nei tempi della giustizia. Il contesto è cambiato grazie alla crisi, ragiona Muschnecks, che nota come anche qui ci si sia resi conto che ridurre i tempi dei processi si porta a risparmi considerevoli. Il rapporto quantifica nell'1% del PIL annuo il costo della lentezza della magistratura e cita come esempio da seguire quello del Tribunale di Torino, che ha ridotto l'arretrato di un quarto in soli 5 anni, poi attacca: è tempo di trovare soluzioni durature. A Radio 24 Muschnecks denuncia anche come il numero di giorni necessari per i processi civili in Italia sia il più alto dei paesi europei analizzati da Strasburgo. Più contrastato il giudizio sulle politiche migratorie e di inclusione, soprattutto di Rom e Sinti, la situazione è molto contraddittoria, ci spiega Muschnecks. Ci sono segni di cambiamento, ma anche di persistenza di pratiche non in linea con il rispetto dei diritti umani, dice. L'adozione della strategia sui Rom è positiva, ma le espulsioni forzate e le situazioni nei centri di accoglienza non sono accettabili. Ancora molto lavoro da fare, dunque il Consiglio d'Europa promette di continuare a monitorare l'Italia anche con il prossimo governo, di qualsiasi colore sarà. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rischiano di infiammare ancora di più le relazioni con il mondo arabo le nuove caricature del profeta Maometto pubblicate dal settimanale satirico francese Charlie Hebdo in edicola oggi. Laurent Fabius, ministro degli esteri francese in visita al Cairo, si è detto contro ogni provocazione e ha ricordato l'esistenza in Francia della libertà d'espressione, che ha detto non vuol dire insultare paesi o popoli. Intanto il rettore della grande moschea di Parigi, saputa la notizia, ha lanciato un appello alla calma. Voltiamo pagina. La Commissione europea ha chiesto un nuovo rafforzamento dei poteri di Eurostat, l'ufficio europeo di statistica, per aumentarne ulteriormente l'indipendenza e l'affidabilità. La proposta, adottata ieri da Bruxelles, incorpora nel regolamento di Eurostat le norme di qualità che sono attese dai paesi dell'Unione europea. L'iniziativa fa seguito alle gravi manipolazioni dei dati statistici che si sono verificati in Grecia all'inizio della crisi. L'Irlanda sta seguendo con attenzione il programma di riforme. L'economia si sviluppa in linea con le aspettative, ma sono cresciuti i rischi di contrazione. È quanto scritto nel rapporto della Commissione europea sul programma di aggiustamento per l'Irlanda. Il problema, indicano gli esperti della Commissione, sta nel fatto che le previsioni di crescita si fondavano sul forte contributo dell'esportazione, ma il prossimo anno sarà colpito dall'indebolimento dei partner tradizionali, cioè Eurozona, Stati Uniti e Regno Unito. Tra i fattori positivi per l'Irlanda, la Commissione inserisce il deprezzamento dell'euro. Siamo alle borse, tutte negative, quelle del vecchio continente. La fine del divieto delle vendite allo scoperto sui titoli finanziari e le prese di beneficio dopo i recenti rialzi hanno zavorato Piazza Affari per la seconda seduta consecutiva. Il FTSE share ha perso il 2,09% e il FTSE MIB il 2,39%. Tra le banche, male in particolare Intesa San Paolo, meno 5,9%, e Unicredit, meno 4,5%. Le vendite hanno colpito anche Fiat, meno 4,3%. 10% penalizzata dai dati sulle immatricolazioni in Europa e dalle tensioni legate all'abbandono del progetto Fabbrica Italia. Al di fuori del paniere principale, nuovi boom per RCS, più 22,7%, dopo che Diego Della Valle ha annunciato di essere salito all'8,695% del capitale e Telecom Italia Media più 21,6%. Quest'ultima ha guadagnato terreno in attesa di sviluppi nella gara per la vendita della società, da cui nel frattempo si è chiamata fuori Mediaset. Paolo Paronetto da Radiocorp per Radio 24, Sole 24 Ore. Adesso l'estate drammatica del mercato europeo dell'auto. Italia in grande difficoltà, peggio solo Grecia e Spagna. Peggio del 2011 e in fondo lo si sapeva. Il mercato europeo dell'auto ha vissuto un'estate drammatica e tra i paesi più rilevanti l'Italia è quello che ha portato a casa il risultato peggiore, meno 20%. Peggio di noi Grecia e Portogallo, ma almeno in apparenza la loro economia langue più della nostra. Un capitolo a parte lo merita la Gran Bretagna, a galla ad agosto e con alle spalle un luglio brillante. Unico paese con le immatricolazioni in crescita tra gennaio e agosto. Per tutti gli altri, i primi 8 mesi dell'anno sono stati neri. Male la Fiat con un meno 18% ad agosto e un meno 16,5% a luglio. Giù anche la quota di mercato. Dal Lingotto fanno sapere che il forte calo estivo delle vendite nasce soprattutto dal pessimo risultato italiano e questo si sposa bene con quanto afferma Marchionne, che la Fiat sopravvive in Italia grazie ai profitti fatti all'estero. Però, e fatte le dovute distinzioni, anche in Germania le immatricolazioni non sono andate un granché. Eppure Volkswagen ha incrementato la quota. Per il momento la discussione tra chi sostiene che in tempi di crisi non abbia senso sfornare nuovi modelli, Marchionne, e chi invece investe oltre 50 miliardi per i prossimi 5 anni per i tedeschi, segna un altro punto a favore di Wolfsburg. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Porre fine una volta per tutte ai prezzi nascosti quando si acquista un biglietto per un viaggio e creare un nuovo sistema per proteggere i passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea. Sono queste due delle richieste avanzate dagli eurodeputati della Commissione Trasporti che, in una proposta di risoluzione, chiedono che a tutti i cittadini europei vengano garantiti gli stessi diritti ovunque si trovino nell'Unione. Il testo, che dovrà essere approvato dalla plenaria di Strasburgo, sottolinea la necessità che per qualunque mezzo di trasporto le informazioni per i passeggeri siano semplici, chiare e accessibili dal momento della prenotazione sino alla fine del viaggio. I clienti, spiegano gli eurodeputati, si sentono insicuri quando devono far valere i propri diritti di fronte a grandi società che operano in campo internazionale. 25 anni dopo il primo satellite meteorologico europeo, prosegue con successo l'integrazione della nuova generazione di satelliti per le previsioni e il clima, con MeteoPB, satellite meteo costruito sotto il cappello dell'Agenzia Spaziale Europea, l'Europa punta alla leadership mondiale. Pieno successo per il lancio del secondo satellite meteo europeo ad orbita polare, MeteoB. A portarlo in orbita ci ha pensato un missile russo Fregat dal cosmodromo russo di Baikonur in Kazakistan. MeteoB si affianca dunque al primo satellite della famiglia, il MeteoA, lanciato ad ottobre del 2006. La serie MeteoP, costruita da Astrium in qualità di prime contractor insieme all'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA per conto di EUMETSAT, l'Organizzazione Europea per la Gestione dei Satelliti Meteorologici, comprende 3 satelliti, tutti dotati dell'interferometro a infrarosso IASI, divenuto ormai lo strumento di riferimento per le previsioni meteo a lungo termine per tutte le agenzie europee. Sviluppato da Thales Alenia Space per l'Agenzia Spaziale Francese, lo IASI è uno strumento ad altissima risoluzione spettrale che ha rivoluzionato la meteorologia operativa grazie alla sua capacità di misurare con precisione i profili di temperatura e di umidità delle colonne atmosferiche, sfruttando avanzate tecniche di interferometria. Le misurazioni effettuate dallo strumento IASI migliorano le capacità di monitoraggio del clima, dunque temperatura, ma anche gas serra, e permettono di comprendere la qualità dell'aria, la chimica dell'atmosfera, grazie allo studio tridimensionale degli elementi che la compongono. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Partite di calcio truccate in 19 stati dell'Unione Europea su 27, ma non esiste una definizione comunitaria di frode sportiva. Con questo obiettivo in testa si è riunita la Commissione Mafia e Crimine Organizzato del Parlamento Europeo in un'audizione pubblica che vuole gettare le prime basi per un approccio europeo al fenomeno. Truccare partite è considerato una faccenda minore, ha affermato la relatrice del rapporto sulle partite truccate e la frode sportiva, la socialista olandese Emine Botskourt, presentando la sua proposta. ma è un problema serio, è una via facile di riciclaggio, ha detto. Le pene nell'Unione Europea sono molto diverse e spesso deboli, abbiamo bisogno di un approccio comune. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto, grazie a Valeria Bernardi in regia. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.